Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Facile parlare dei thriller perché insomma si sa, non possiamo svelare quasi nulla della trama e anche parlare a fondo dei personaggi, diciamo che potrebbe fornire un po' troppi indizi. Mi succede sempre questa cosa quando devo parlare dei romanzi di Donato Carrisi, e succede anche per quest'ultimo, che si intitola Io sono l'abisso ed è pubblicato da Longanesi. Questo è un thriller inquietante che veramente entra sotto pelle e diciamo che mette anche un po' in crisi il modello culturale di alcuni ruoli sociali. Ecco, non posso dire molto di più. Posso solo dire che la trama è costruita in modo decisamente avvincente. Fino praticamente all'ultima pagina ci sono colpi di scena. Donato, inquietudine è la parola che ormai mi viene sempre più spesso da associare ai tuoi romanzi, perché non ci sono tante scene splatter, diciamo così. In realtà è più quello che il lettore immagina leggendo le cose che tu scrivi. Insomma, l'inquietudine è il tuo segno distintivo ormai. È come se io ti avessi messo una micro carica di esplosivo nel cuore. Questo è il senso della mia inquietudine, dell'inquietudine che racconto. Io voglio vederla esplodere nel cuore del lettore e soprattutto voglio che il lettore sia cosciente di avere questo pericolo dentro di sé. Io in fondo vado a scavare l'abisso che c'è dentro il lettore, oppure scoperchio un abisso che esisteva da tempo, quindi apro questa botola all'improvviso. E questa è l'attività che più mi piace fare, perché poi i libri questo fanno, entrano dentro di noi, si insinuano con le frasi, le parole, alimentano la nostra fantasia e poi ci stupiscono. Ecco, abbiamo detto all'inizio che non possiamo raccontare tantissimo della trama, ma qualche elemento lo possiamo dire. Anche in Io sono l'abisso ci sono di mezzo i bambini, come in altri tuoi romanzi, ricordo per esempio La casa delle voci. Come mai, ecco, spesso i protagonisti sono appunto bambini o maltrattati o traumatizzati? Come mai sono un soggetto narrativo così interessante per te? Perché tutti quanti in qualche modo abbiamo subito un trauma nell'infanzia, chi più forte, chi meno forte, tutti siamo stati segnati nell'infanzia. E perché poi esiste un'illusione, cioè che durante l'infanzia si possa sbagliare, si è liberi di sbagliare perché tanto poi c'è tutto il tempo per crescere e per rimediare. Non è vero, l'infanzia determina ciò che saremo da adulti, è inevitabile, il nostro destino è come se fosse segnato già nell'infanzia, quindi quando ci accade qualcosa di brutto, di inspiegabile nel corso dell'infanzia, è chiaro che tutto questo si riverbererà nel resto della nostra vita e determinerà ciò che diventeremo da adulti. Ecco, possiamo magari dire, solo accennare alla scena iniziale, perché veramente avviene nelle prime 12 pagine e c'è questo bambino di 5 anni con una madre, definiamola così, anaffettiva. Si capisce che è una donna un po' fredda nei suoi confronti perché lo lascia quasi annegare in questa piscina abbandonata, insomma, di acqua putrida. Infanzia e anche adolescenza c'è in questo romanzo, perché poi a un certo punto comparirà un altro personaggio, la ragazzina con il ciuffo viola, anche lei alle prese con una serie di problematicità, diciamo così. Quindi sono, diciamo, le due fasce d'età che evidentemente hanno stuzzicato di più la tua fantasia di autore di thriller. Ma tutto parte da una domanda: quanto conosciamo noi realmente i bambini, gli adolescenti, i nostri figli, i nostri nipoti? Quanto sappiamo realmente di loro? Da questa domanda io sono partito per raccontare tutto un mondo segreto che è lontanissimo da noi. Devo dire che i riscontri che sto avendo da parte dei lettori sono dei riscontri importanti, perché per molti versi sono riuscito a centrare alcune storie comuni all'esperienza di tanti lettori. Poi io ricordo me stesso durante l'infanzia, durante l'adolescenza, in qualche modo racconto molto di me in questo libro. Infatti questo per me era un libro pericoloso, perché mai come stavolta mi sono concesso alla pagina. Ecco, questo è un romanzo anche leggermente diverso dagli altri. Forse gli ultimi due romanzi della tua carriera sono un po' diversi dagli altri. Come mai? Beh, perché entrambi i romanzi sono romanzi di paura, ma anche d'amore. Ecco, le due cose si combinano e si intrecciano. Raccontare l'amore e la paura e fare in modo che l'uno influenzi l'altro e secondo me era un bel esperimento e ho voluto ripeterlo, stavolta in maniera un po' più approfondita rispetto alla Casa delle Voci, ma sicuramente diciamo le due storie sono in qualche modo connesse, collegate, perché appunto vengono dalla stessa necessità di unire due cose che in apparenza sono incompatibili. Ecco, prima ho citato il personaggio della ragazzina col ciuffo viola, ma ci sono anche altri due personaggi fondamentali in questo romanzo, sia l'uomo che puliva e la cacciatrice di mosche. Ecco, tutti i personaggi principali non hanno dei nomi propri. Perché? Allora, in realtà io mi ero prefisso di dar loro un nome e nella copia lavoro, quindi mentre stavo scrivendo il romanzo, li ho semplicemente definiti sulla base di una caratteristica fisica, sulla base della loro funzione. Man mano che andavo avanti a scrivere, però, mi sono reso conto che mentre gli altri comprimari riuscivo a battezzarli, loro tre proprio no. E sono rimasti così perché dopo aver sperimentato in vari romanzi non luogo, stavolta ho voluto togliere l'identità ai personaggi, eppure vengono fuori in maniera potente, tutti e tre, anche se alla fine non hanno un nome. E poi perché dovendo descrivere tre personaggi solitari, forse questa maniera era la migliore per rendere appunto la loro solitudine. D'altronde questa storia ruota intorno alla domanda: siamo davvero soli quando siamo soli? Ecco, effettivamente la solitudine è qualcosa che accomuna tutti i tuoi personaggi. Diciamo che probabilmente è anche uno spunto narrativo molto interessante per un thriller, così per esempio come il luogo è ambientato sul lago di Como, che viene definito da uno dei tuoi personaggi il posto più tranquillo della Terra, ma anche il più solitario. Quanto, diciamo, pesa, senza andare nel dettaglio, la solitudine per questi tuoi personaggi? Tantissimo, anche perché questo romanzo è stato scritto in un momento di grande solitudine, non solo mio, ma dell'umanità. L'ho terminato praticamente poco prima che finisse il lockdown, il primo lockdown. Pertanto era determinante rendere questa solitudine e renderla in maniera efficace, quasi romantica, ecco. Perché forse attraverso la solitudine si scoprono tante cose di sé e degli altri. Forse mettendo una distanza o tracciando una distanza tra sé e gli altri si riescono a capire molte cose di se stessi. Ecco, l'uomo che puliva è un operatore ecologico, appunto, qualcuno che raccoglie tutti i giorni l'immondizia, sacchetti di immondizia degli altri. A un certo punto tu scrivi: la spazzatura di una persona racconta la sua vera storia, perché a differenza delle persone, la spazzatura non mente. Effettivamente è una cosa a cui non avevo mai pensato, ma ogni tanto capita di vederla anche, non so, nei film o nelle serie TV crime, che attraverso la spazzatura si può scoprire moltissimo delle persone, è così? Ma sì, perché in fondo le ultime generazioni, a cominciare dalla mia, forse anche quella precedente, sono quelle che hanno gettato di più nella storia. Prima si tendeva a conservare, a riparare, adesso gettiamo via tutto. Siamo molto attenti ad un certo tipo di privacy e poi buttiamo via delle parti di noi con una facilità impressionante. Lo facciamo quando appunto gettiamo la spazzatura oppure quando andiamo semplicemente su internet, quando parliamo apertamente di noi. E c'è sempre però qualcuno in agguato, qualcuno che può entrare nelle nostre vite attraverso ciò che gettiamo via. C'è qualcuno che può violare i nostri segreti e che può addirittura entrare talmente a fondo nella nostra vita da condizionare la nostra esistenza. Ecco, però c'è una nota alla fine del romanzo in cui tu scrivi: le storie di questa storia sono ispirate a fatti realmente accaduti. Quindi c'è qualcosa di vero che ti ha, diciamo, ispirato? Tutte le storie che non ho mai messo nei miei romanzi in questi anni, tutte quelle che mi ero astenuto da raccontare, erano un po' le storie tabù, sono tutte finite in questo libro. Ma a cominciare dal capitolo mancante della mia tesi di laurea, che è stata la prima storia vera che ho scritto, perché ho fatto una tesi all'epoca sui serial killer, su Luigi Chiatti in particolare, il mostro di Foligno, ma perché avevo scoperto un risvolto nell'esistenza dei serial killer. Quasi tutti avevano compiuto qualcosa di buono nel corso della loro vita, eppure quella buona azione non aveva deviato appunto il corso della loro vita, non li aveva fatti diventare buoni. Alcuni erano addirittura avevano ricevuto un riconoscimento per ciò che avevano fatto. Ecco, il lato buono del male è questo che voglio esplorare in questo romanzo, perché ormai siamo, no, un po' troppo definiti, vorremmo distinguere nettamente il bene dal male, però se non riusciamo a scorgere il bene nel male, come possiamo pretendere di scorgere il male nel bene, che è molto più pericoloso? E che cosa è successo nella tua testa per portarti in questo momento della tua carriera e della tua vita a fare questo passo? Ma forse perché ero abbastanza maturo io per fare questo passo. Mi sono sentito finalmente all'altezza e mi sono liberato di una serie di fantasmi, di una serie di tabù. E ho voluto raccontare questa storia in maniera autentica. Ti rivelo una cosa: quando ho finito di scriverla, dopo una settimana dopo averla mandata al mio editore, ho richiamato il mio editore per dirgli: guarda, non voglio più pubblicarlo questo libro, perché si era creato una specie di blocco dentro di me, non volevo più condividere questa storia con il pubblico, con i lettori. Poi piano piano, diciamo, parlando anche con l'editore, perché l'editore serve anche a questo, a far ragionare gli scrittori e in qualche modo ad aiutarli a capire qual è il senso della storia che hanno scritto, perché non sempre gli scrittori sanno perché hanno scritto una storia. Piano piano ho capito che invece il libro andava pubblicato e che Io sono l'abisso avrebbe trovato la sua strada nel cuore dei lettori senza che io mi preoccupassi troppo del come avrebbe fatto a trovarla. Grazie a Donato Carrisi, ora in libreria con Io sono l'abisso, pubblicato come gli altri suoi romanzi da Longanesi. Grazie Donato. Grazie a te, grazie a voi. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Giallo ironico e divertente, con una narrazione veramente piena di ritmo. Secondo me è un giusto mix fra la trama gialla, vi assicuro che c'è anche un pizzico di inquietudine, e diciamo le vicende professionali e personali della protagonista. Allora, la protagonista è Teresa Papavero, psicologa criminale creata dalla penna di Chiara Moscardelli. Il nuovo romanzo si intitola Teresa Papavero e lo scheletro nell'intercapedine, pubblicato da Giunti. Questo è il secondo volume dedicato a questa protagonista. Tra l'altro vi ricordo che Chiara Moscardelli è famosa anche per altri romanzi, diciamo non solo per Teresa Papavero. Vi cito un titolo sopra tutti: Volevo essere una gatta morta. Allora, in questo caso invece torna appunto Teresa Papavero, una donna, abbiamo detto, psicologa criminale, che si sente sempre un po' inadeguata, forse anche perché il padre, che è un famoso criminologo, non fa altro che ripeterle sostanzialmente che è una cretina. Allora, Chiara Moscardelli, ci puoi dipingere così con qualche rapida pennellata questo tuo personaggio, Teresa Papavero, per chi ancora non lo conoscesse? Beh, rapida pennellata, trattandosi di me, la vedo veramente difficile, ma cercherò di essere breve e succinta. Ma dunque, Teresa Papavero, nel primo volume, aveva lavorato per un sacco di anni in un sexy shop, proprio perché, avendo ripercorso le tappe del padre, aveva studiato criminologia come il padre, eccetera, però sì, come hai detto giustamente tu, si è sempre sentita inadeguata, per cui è finita a lavorare in un sexy shop. Alla fine si stanca del sexy shop e per cercare il suo posto nel mondo si trasferisce a Strangolagalli, che è questo paesino che esiste nel Frosinate, pieno di persone meravigliose, e là apre un bed and breakfast. Ovviamente, come succede alla signora Fletcher della signora in giallo, che a me piace tanto, dove va Teresa Papavero si intruppa in cadaveri, morti e sparizioni, e così succede. In questo è veramente simile, insomma, alla signora Fletcher, perché sembra che a Cabot Cove vengano ammazzati una persona al giorno. La stessa cosa più o meno succede per Teresa Papavero a Strangolagalli. Esatto, tanto che il secondo volume si apre con lei che ha risolto brillantemente i casi di omicidio del primo volume e il sindaco e la città di Strangolagalli per ringraziarla di aver portato onore e gloria a quel piccolo borghetto fa dono a Teresa Papavero dell'abitazione che era del comune adiacente alla casa di Teresa. E proprio Ed mentre lei... è qui che si fa una scoperta, ed è qui che Esatto. si fa una scoperta fondamentale durante i lavori di ristrutturazione, perché mentre stanno demolendo, anzi lei sta proprio demolendo un muro, praticamente appare un cadavere, ormai uno scheletro di un cadavere, ed è qui che nasce la trama gialla. Da che cosa è incuriosita Teresa Papavero? Allora, è incuriosita innanzitutto dal fatto che si tratta di uno scheletro e questo vuol dire che cioè, non è un cadavere. I cadaveri, cioè, nel senso, non ci sono tessuti, se vogliamo, no? E sono proprio delle ossa. E questo, lei che è un'esperta senza saperlo, vuol dire, sa che è stato rinchiuso dentro l'intercapedine almeno 10-15 anni prima, poi si verrà a scoprire che sono in realtà quasi 30, quindi è a tutti gli effetti un cold case. In più, lei attraverso le ossa, cioè osservando le ossa, vede che è un cadavere di una donna. E guarda caso, la mamma di Teresa è scomparsa 30 anni prima. Ecco, anche questa scomparsa pesa moltissimo nella vita di Teresa Papavero, perché la mamma è scomparsa che lei era una ragazzina, aveva 12 anni, quindi anche questo ha avuto un peso nello sviluppo anche della sua personalità. Ha voglia, accidenti. Come diciamo che la differenza tra Teresa Papavero e le mie protagoniste precedenti, che sono un po' moscardelliane, se vogliamo, le mie protagoniste precedenti e anche la Moscardelli sono alla ricerca del principe azzurro. A Teresa Papavero il principe azzurro non interessa, lei ha un'insicurezza di fondo, poi per carità li trova, inciampa in, come dire, uno, due, tre principi azzurri, quindi diciamo, però lei non è interessata, come si dice nella vita, quando non lo cerchi lo trovi. E lei in realtà ha sofferto della scomparsa della madre, che effettivamente sparisce senza lasciare traccia, quindi lei ha sofferto dell'abbandono e ha vissuto tutto il tempo nell'ombra di questo padre. Quindi il suo problema è quello di avere paura di legarsi affettivamente a qualcuno perché teme che questo qualcuno poi possa sparire dalla sua vita. Ecco, in questo effettivamente Teresa Papavero è molto diversa dalle protagoniste, come giustamente tu le definisci, moscardelliane, perché tu lo dichiari spesso, che si ispirano appunto alla tua vita. Diciamo che in questo romanzo lei arriva anche un po' a mettere i piedi in due scarpe, perché diciamo che l'amore del primo libro, diciamolo così, è tale Serra che ricompare prima o poi anche in questo romanzo. Però nel frattempo lei instaura una relazione con un medico legale, con Maurizio Tancredi, che era anche amico di suo padre, fra l'altro. Anche qui la vediamo sempre un po' un passo indietro, cioè lei non vuole mai impegnarsi più di tanto con gli uomini, non ama avere queste relazioni troppo serie, però si diverte molto. Si diverte moltissimo anche perché, come dire, ha tutta una serie di ammennicoli che lei ha perché ha lavorato in un sexy shop e quindi diciamo che da quel punto di vista, ecco, lei non ha problemi, tanto si possono dire siamo in fascia protetta, no? Sì, vai, vai, vai serena. Quindi diciamo che lei ha manette rosa pelose, ha vari principi azzurri, come li chiamo io, quando sono andata a fare una supervisione in un sexy shop. Esistono dei, cioè esistono così, degli aggeggi che vengono proprio chiamati principi azzurri. Io l'ho preso, ce l'ho nel cassetto. Su questo stendiamo, come dire, un velo rispettoso, non pietoso, ma rispettoso. Però, visto che tu hai iniziato a parlare di, diciamo, strumenti, ci sono altri tipi di strumenti che compaiono in questo tuo romanzo e sono gli strumenti di tortura. Perché questo lo possiamo dire, lei dovrà indagare alla fine su un caso legato, forse, probabilmente a un serial killer. Non è chiaro se i casi sono intrecciati o meno, lo si scoprirà solo naturalmente leggendo il libro, però insomma questo serial killer è esperto di strumenti di tortura ed è qui la parte inquietante del tuo romanzo perché la trama gialla c'è, regge ed è perfetta secondo me e hai dato anche quella certa inquietudine al lettore perché insomma il serial killer non è esattamente la persona più tranquilla del mondo. No, no, decisamente. Beh, io che sono, diciamo che durante il lockdown mi sono aiutata, oddio, aiutata, non lo so se è il termine adatto, però con, guardando, riguardandomi per l'esattezza tutta la serie TV di Criminal Minds, che per certi versi, secondo me, ha influenzato, come dire, la stesura, di questo secondo, di questo secondo volume. Ma in realtà io sono sempre rimasta molto affascinata dalle menti criminali. Cioè, io sono una di quelle, non mi vergogno a dirlo, forse anche un pochino sì, che è presente quando si creano le file perché ci sono gli incidenti sulla Ecco, strada? tu ti Ecco, io fermi. sono una di quelle che crea le file, cioè nel senso che io ho sempre avuto un'attrazione morbosa, cioè sono curiosa di vedere cadaveri, morti, eccetera. Non mi è mai successo, nella vita reale, però almeno lo faccio accadere a Teresa Papavero. E quindi sì, devo dire che qui in particolar modo mi sono scatenata, e mi sono, come dire, ho scavato nella mente, in una vera e propria mente criminale. Ecco, ma come fai a passare dalla narrazione inquietante, appunto, relativa al serial killer, alla narrazione invece più leggera, più divertente, l'ho detto ironica, io mi sono fatta tante risate, ma mi sono anche un po' impaurita in alcuni punti delle vicende invece di Teresa Papavero, che sono non solo vicende sentimentali, ma proprio vicende anche di vita quotidiana, del rapporto con gli abitanti di Strangola Galli, che ormai la adorano e vanno a chiederle consulenza per qualsiasi cosa. Insomma, bisogna riuscire a mantenere un equilibrio notevole, appunto, fra inquietudine e leggerezza. È una domanda da 1 milione di dollari, nel senso che in realtà è una cosa su cui io sto lavorando, come sai, da anni. Nel senso che, a parte volevo essere una gatta morta e volevo essere una vedova, che sono appunto le mie autobiografie, però tutti gli altri romanzi precedenti cercavano un equilibrio tra la risata, l'ironia e diciamo, il thriller, il giallo. La mia aspirazione, cioè la mia massima aspirazione sarebbe quella di scrivere una cosa un po' alla Caccia al Ladro, no? Di Hitchcock. Se ci pensi, in Caccia al Ladro c'è il giallo, ma c'è molta commedia sofisticata, si ride anche molto. Ecco, io credo che finalmente in Teresa Papavero 2, La Vendetta, cioè Teresa Papavero, Scheletro e l'Intercapedine, credo e spero di esserci riuscita. No, guarda, non è facile per niente, ma proprio per niente. Io testimonio che ci sei riuscita alla perfezione, infatti l'ho detto all'inizio di questa nostra intervista, che secondo me è un mix veramente equilibratissimo fra trama gialla e parti invece divertenti. Senti, ma dimmi la verità, quanta soddisfazione prova Teresa Papavero nel momento in cui ha ragione lei e non ha ragione suo padre? Ora non dico il dettaglio perché sennò svelo troppo della trama, ma insomma, alla fine c'ha ragione Teresa Papavero. Sempre, sempre, grande soddisfazione, però come spesso dico, lei non lo sa, il modo in cui tu ti guardi allo specchio e il modo in cui poi appari nel mondo, no? Cioè se tu ti guardi allo specchio la mattina e dici, oddio quanto sono brutta, come capita sempre alla Moscardelli, o quanto sono, o quanto valgo poco, tutti gli altri ti vedranno brutta e di poco valore. Se invece una mattina uno riuscisse a svegliarsi e a dirsi, ammazza quanto sono bella, un po' come capita agli uomini, beati a loro, come capita spesso al papà di Teresa Papavero, che non ha mai un dubbio, mai un cedimento, cioè lui è convinto di essere un figo e di essere un genio, non è né l'uno né l'altro. E lentamente Teresa Papavero scopre che effettivamente è così. Grazie a Chiara Moscardelli, ora in libreria con Teresa Papavero e lo scheletro nell'intercapedine, pubblicato da Giunti. Ah, già vi anticipo che sicuramente ci sarà un sequel, perché da come finisce questo romanzo si capisce che ci sarà un sequel, ce lo confermi? Conferma assolutamente, sì. Cioè la storia si conclude, ma alcune cose E alcune restano. cose restano in sospese. Grazie allora, Chiara Moscardelli. Grazie a te. E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.